buongiorno. Pronto, buongiorno. Come stai? Ecco, stamattina ammetto che ho fatto un po' di fatica ad alzarmi, però va bene. Anche io. Mi stavo per dimenticare, lo sai? Addirittura. Sì, sai quando metti la sveglia che dici altri 10 minuti, poi ho detto vabbè, ma tanto stamattina non ho nulla da fare, invece non è vero, quindi buongiorno soprattutto. Buongiorno, sì, forse perché stiamo proprio già entrando nel pieno inverno che è buio totale. Esatto, questa mattina pensavo proprio a questo, che magari chi ci ascolta penserà, vedi, io però non riesco a alzarmi presto la mattina, loro fanno facile, noi no, non è facile per nessuno, che ci sono anche periodi che proprio non si riesce, no? Nonostante l'impegno proprio, sì, e va bene così. Sì. Però è bello avere un motivo anche una volta a settimana per poi sforzarsi, no? Sì. Infatti ieri parlavo con un'amica mia che mi ha detto la crescita personale non è fare grandi passi, La crescita personale è fare piccoli passi, no? Era una cosa che io ho cercato di dirle a lei per un anno, di spiegargli, di fargli vedere. Esatto. Evidentemente non era quel momento, non era il suo momento per capire le cose, no? E quindi ieri invece è tornato e mi ha detto guarda che ho capito che la crescita personale sono piccoli passi tutti messi insieme, sì. Questo è un piccolo passo che mi fa anche molto piacere sapere che venerdì alle 6:30 ci sei e ci sarà qualcun altro che ti ascolta e magari una parola nostra può aiutarci a tutti quanti, no? Sì, diventa so quelle cose, guarda, vedi, stamattina poi andiamo a getto, no? Diventano quelle cose che subito dici che palle, mi devo alzare, uffa, no, però una volta, due, tre, poi alla quarta, alla quinta diventa un rituale, no? Diventa quella cosa che poi sai che te dà gioia, perché sì, sai che alzandoti poi c'è quella cosa bella, diventa come quando aspetti la domenica, no? Come quando aspetti il giorno della festa, il giorno, non so, poi sai che è venerdì, comunque l'abbiamo scelto di venerdì e aiuta, perché sai che comunque è finita la settimana, quindi è più facile farlo di venerdì che di lunedì, per esempio, no? Sì, è vero. Di lunedì ci abbiamo provato e è saltata, ti ricordi? Abbiamo provato una volta a vederci di lunedì per fare questo podcast e non è andato, ecco. Esatto. No. Però vabbè, chissà, un domani. Sì. Anche lunedì, anche altri giorni. Sì, l'importante è fare, poi dopo io vedo che tante volte, l'anno scorso per esempio, approfitto per raccontare questa storia, l'anno scorso avevo scelto il mercoledì di fare l'alba facendo Qigong, che è una ginnastica cinese dove ti stirano tutti i meridiani, dove ti svegli, no? Al mare, siccome abito cioè praticamente sto vicino al mare, e siccome una volta lo facevo, poi dopo non lo facevo, poi lo rifacevo, e dicevo sempre ogni volta che andavo giù, dicevo ma perché non lo faccio, no? Perché poi quando ti sei alzato e hai fatto lo sforzo iniziale, poi sei contento perché stai al mare, fai l'alba, dopo sei premiato, no? E allora ho detto ok, sai che faccio? Stabilisco che tutti i mercoledì mattina faccio l'alba e lo dico a tutti, così mi prendo un impegno anche con gli altri, e prendendomi questo impegno a volte mi ricordo che non mi volevo alzare ma lo devo fare per gli altri, no? E quindi grazie a loro mi alzavo e grazie a loro mi sono goduto delle albe spettacolari, quindi poi alla fine è stato un aiuto reciproco, esatto, come dicevi tu, no? Sì, perché noi tutti gli esseri umani siamo più altruisti, no? Mm-hmm. Tante volte facciamo di più per l'altro che esatto, per noi. Esatto. Anche io mi ricordo che in un corso che avevo fatto a Barcellona mi alzavo alle 5 per aiutare un altro collega a alzarsi alle 6 perché lui aveva chiesto aiuto, io aiutatemi, io non riesco da solo. Mm. E quindi facevo di più per lui che per me. Lì ho riflettuto, ho detto ma è possibile che faccio di più per gli altri che per me stessa? Esatto. Mm. Quindi la motivazione sì è così. Degli altri. Mm. E pensa che poi alla fine per aiutare lui comunque ti sei svegliata anche tu prima, quindi hai aiutato anche te, no? Certo, sì, sì, aiutando gli altri aiutiamo in primo luogo a noi stessi, sempre, per forza, solo che ci dà più forza sapere che aiutiamo gli altri. Ecco. Sì. Infatti è anche questo il motivo per cui abbiamo deciso, tra virgolette, di aggiungere questa telefonata online, no? Nel senso che almeno sappiamo anche, abbiamo anche un impegno non solo tra di noi, che possiamo, come dici tu, tra me e me posso anche smettere di fare una cosa che mi sono preso un impegno, no? Tanto non lo sa nessuno, tanto per me non conta, no? Invece quando lo metti per gli altri, purtroppo ci tieni di più, allora dici ok, e quindi per rispettare la parola data agli altri rispetto anche me stesso, e quindi è veramente un bene di tutti, no? È una figata. Lì inizia anche la coerenza. Esatto. No? Che è impegnativa di mantenerla, di farla cadere. Io 2 o 3 giorni fa ho scritto: comincio a fare 10 minuti di camminata al giorno. Sì. Ho visto. Anche se non mi va al mattino, io mi ricordo di quell'impegno che ho preso con me stessa e l'ho detto a tutto il mondo. Adesso, e la forza. Quindi essere coerente, dire e fare è molto impegnativo, ma una volta che lo fa, come hai detto te, c'è questo premio dopo, no? Sì. Sentirsi bene con se stessi, di migliorare l'autostima, è una sequenza di effetti positivi che ci lascia in tutta la giornata, la settimana e la vita intera. Sì, ma poi, poi tu adesso che l'hai detto a tutti, lo devi fare per forza, e anche tu lo sai che se non l'avessi fatto avresti durato pochissimo, no? E comunque veramente ti fai un bene, perché comunque poi migliori, perché stai meglio e tutto, no? E poi il fatto di dirlo agli altri secondo me è veramente fondamentale, perché lo dicono tutti i corsi di formazione, no? Però un conto è dirlo, un conto è farlo, no? E io ho notato che questa coerenza poi ritorna anche nel futuro, non solo per quella cosa che hai fatto, ma quando lo fai 1, 2, 3 volte, anche sfruttando gli altri, nel senso che promettendo agli altri io sono obbligato a farlo per me stesso, poi alla fine la tua mente si allena, che sa che se tu dici una cosa poi la fai, e quando tu sai che se dici una cosa poi la fai, poi dopo arriva un punto dove non hai più bisogno per forza di qualcuno che ti controlla, no? Sì, infatti mi ricordo tante volte che io ti chiedevo: e come faccio? E come faccio? E tu mi dicevi: fallo e basta. Fallo e basta. Come si fa? Facendolo. C'era... E come faccio a alzarmi presto? Alzati presto. Esatto. Come faccio a mantenere, non so, una dieta, un ritmo, fallo sportivo? Fallo. Dopo non ho detto mai farlo bene, no? O farlo preciso, perché per alzarsi presto bisogna alzarsi presto. Io non dico che però bisogna riuscire ad alzarsi presto. Cioè, quante volte io mi sono messo la sveglia alle 5, poi mi sono svegliato alle 7, quante volte, Paolo? Penso anche tu, no? Sì. Però quello fa parte del farlo, perché poi è una crescita, no? E nonostante lo fai sempre, nonostante io sono 2 anni ormai che cerco di alzarmi presto la mattina, comunque, ecco, vedi, stamattina era una lotta, e anche quello fa parte del gioco, nel senso che non è arriva un punto in cui dici: ah, adesso ok, ho imparato, ormai mi alzo sempre alle 5. Magari poi c'è la stagione autunnale dove tutto dorme, tutte le piante si seccano, e comunque anche il corpo umano richiede sonno, fa fatica ad alzarsi, no? È normale, però lo fai lo stesso, o comunque sai che è parte di te, quindi oggi no, ok, domani sì, pazienza, no? Sì. Infatti quello è il bello, il processo, no, del cambiamento. Esatto. E senza farsi una colpa, ma godersi il percorso. Sì, alla fine ti godi il percorso, perché poi mi è capitato di svegliarmi veramente alle 7:30, che dalle 5 veramente è tardissimo, sono 2 ore e mezza di differenza. E succede che praticamente ti godi tutto la lotta, tra virgolette, no? Allora ti fai i sogni, allora dopo ti svegli, poi capisci, poi pensi. Alla fine tra virgolette potrebbe anche essere divertente anche quello, a volte, no? Non sempre, ma a volte sì. L'importante è sempre però come stiamo facendo noi, avere, come stiamo facendo, come abbiamo sempre fatto, avere un supporto, un compagno, una compagna di viaggio che ti aiuta, no? Magari io la prima volta non ero attrezzata con l'internet, la seconda volta tu ti sei addormentato, la terza volta ci siamo riusciti. Cioè, avere un compagno o un gruppo, un team di persone che ti supportano, per me è stato sempre fondamentale. Diciamo che l'obiettivo è imparare ad andare da soli, ma iniziare insieme e supportarsi è molto più facile e a volte è veramente essenziale. Sì, perché questo podcast ancora non è nel nostro sangue, no? Alzarsi il venerdì mattina ancora non è diventata un'abitudine, quindi succede ancora che, esatto, ti dimentichi, oddio, non c'hai il telefono carico, no? Io sono convinto, e lo proveremo perché lo stiamo facendo, che fra qualche settimana questa cosa diventerà un automatismo, no, per noi. Cioè, in automatico il venerdì mattina il corpo tuo sa che alle 6:30 c'è quello, e se non ti svegli c'è qualcosa che senti che non ti va, no? Come, lo sai, ormai diventa parte di te. E ci stiamo godendo anche questo allenamento, no? Perché ancora non è così, ma arriverà. Infatti sì, sappiamo che noi siamo pieni di abitudini, Siamo molto abitudini, abitudini, fin da esatto. quando nasciamo, no? Quindi quando ho imparato questa regola che dicono dei 21 giorni, Sì, fare 21 una stessa cosa per giorni. 21 giorni, in automatico diventa un'abitudine. Quindi noi magari dobbiamo farlo un po' prima di 21 venerdì, così stiamo sempre svegli. Magari la prossima settimana che cambia l'ora, dormiamo un po' Mamma di mia, più. esatto. Sarà ancora più difficile la prossima settimana che cambia l'ora. Però 21 giorni secondo me vale lo stesso proprio nel tempo, nel senso che se so 7, 14, 21, 3 settimane, questo è il terzo podcast oggi. Comunque già sta iniziando ad essere qualcosa di non super nuovo. Senti, siamo anche più rilassati noi nel parlare, no? Siamo più tranquilli. Sì, c'ho sempre gli appunti con le note, parliamo di questo e di quello, però c'è più rilassatezza, no? E anche c'è più qualità del suono, proprio a livello tecnico. Se uno ascolta il podcast la settimana scorsa, si sente Infatti mi malissimo. dispiace se No, sei no, ma è normale. annoiato. Certo. Però Mi vedi, ascoltando dispiace. questi podcast, qualcuno si può rendere proprio conto del percorso come è palese, no? Il primo è stato discreto, il secondo è andato bene, però era un po', c'era un po' di casino, no? Ma è così che funziona, no? Sì. E poi i nostri ascoltatori cominciano a conoscere anche il nostro stile di vita, le cose che facciamo, no? Per dire, io ho finito alle 6 alla radio la settimana scorsa, Esatto, quindi non andate. siamo riusciti a salvare il file di 6 ore di lavoro, quindi è andato tutto perso. Quindi voi Invece oggi avete avevo ufficio. l'appuntamento con te. E quindi tanta gente mi dice sei fortunata, non è che sono fortunata, è che faccio tante Faccio. cose, quelle che Esatto. io amo e seguono una linea con il mio Esatto. discorso, che è quello del colibrì, la crescita personale, eccetera, eccetera, no? Sì. E mi fa piacere perché tramite questo podcast tanta gente ci può conoscere, che fanno almeno una volta a settimana. Sì, ma Quindi poi ma magari vedi che anche se sembriamo, tra virgolette, no, diciamo, questi sanno tutto, fanno tutto, no, perché tu hai fatto, esatto, una trasmissione radio di 6 ore e non avete salvato il lavoro, no? Perché per vari errori, no? E poi dici la è colpa è di. stato solo un errore, uno solo. No, Hanno però. dato la responsabilità non Ad una a quella persona. persona. Esatto, In l'errore realtà eravamo fondamentale. in tre. Esatto, perché di tre solo uno la responsabilità di fare una cosa così preziosa è rischioso, no? E pensa che quel giorno abbiamo fatto lo stesso errore qui da noi, no? Cioè, io dovevo salvare il podcast in due pezzi. E il telefono non ha salvato e il computer ha salvato, ma ha salvato malissimo e l'ho trovato per le penne, perché comunque stavo per non trovare nemmeno quello. Quindi Quindi abbiamo rischiato e l'errore non è non salvare il podcast, ma l'errore è dare la responsabilità ad una sola persona. Quando c'è in mezzo la tecnologia non ci si può fidare di un solo mezzo, no? Perché... In generale siamo abituati ed è più facile dare la responsabilità Esatto, all'altro, no? anche, Ma in esatto. realtà quando c'è un dialogo, quando c'è un lavoro, è sempre un team, è sempre in due, in tre, in cinque, quindi la responsabilità è per tutti. È di tutti, sì. È per tutti, è di tutti, sì. Forse anche nelle relazioni, no? Che diciamo, vedi perché no? Lui era scorretto, allora io, però lui era scorretto se stava lavorando con te, l'hai scelto tu, quindi alla fine la responsabilità è se... Ti ricordi come diceva Darren Hardy, no? Di Success Magazine, che disse, non mi ricordo se era lui, che in una conferenza dove a Barcellona, dove stavamo io e te Paolina, no? Che disse... Qual è la percentuale di responsabilità in una coppia, no? Era Allora, lui. lui disse: qual è la percentuale di responsabilità in una coppia, no? Allora alzarono la mano alcuni dicevano 30-70, no? Alcuni 70-30, alcuni 40-60, la maggior parte delle persone 50-50, no? Perché dicevano: no, è una coppia, ognuno ha la sua responsabilità 50 per 50, no? E questo penso che sia una cosa che anch'io pensavo erroneamente, no? Un po' tutti. 50-50, dico, ma beh, 50 io, 50 tu, quindi metà colpa tua, metà colpa mia, no? E un po' invece questo giustificava, perché io mi attaccavo sul 50 dell'altro per dare la responsabilità all'altro, no? Invece Darren Hardy disse una cosa bellissima, te la ricordi tu che cosa disse? Sì. Che No. disse la responsabilità in una relazione per ognuno è del 100%, no? E dice che io ho il 100% responsabilità, l'altro ha il 100% responsabilità. E questo mi ricordo che poi io l'ho messo in pratica, ma ha cambiato veramente tutto. Cioè, la colpa, tra virgolette, no? La colpa, la responsabilità è tutta mia, sempre. Cioè, se Paolina e io facciamo un podcast e Paolina per caso si dimentica, la responsabilità è comunque la mia, che mi sono fidato di Paolina sapendo che si potesse, cioè, capisci? O comunque non accertarmi che lei magari chiamarla 10 minuti prima o magari non verificare. Insomma, la responsabilità è completamente mia per aver scelto quella persona che può essere o non essere affidabile, o viceversa, no? Che ne pensi tu? Sì, anche a me ha cambiato completamente la vita questo concetto perché quando ero arrivata in Italia 13 anni fa dall'Ecuador, praticamente davo sempre la colpa agli altri e il ruolo di vittima non mi Esatto. ha mai aiutato, mai, perché quando sei vittima sei in un ruolo passivo, no? Sì. Punti il dito agli altri e tu sei sempre la vittima, quella che subisce. E questo ruolo non mi permetteva fare azione, non mi permetteva andare oltre. Quando avevamo fatto questa formazione insieme, tanti altri libri che ho letto, e Sì. diceva la responsabilità è 100% tua, non ho Cambia, cominciato ad applicare, perché tu puoi leggere che rimane lì, o leggere e applicare, cambia tutto. La mia vita si è trasformata al 100%, è migliorata tantissimo, soffrivo di meno perché non ero più la vittima, ma bensì quella che faceva azione. Esatto, Quante sì. cose, quante cose abbiamo imparato, E Stefano. poi anche quando soffri, poi capita che perlomeno non ti incavoli con nessuno, no? Perché sai che comunque sei tu in qualche modo l'artefice di quella sofferenza. Quindi diciamo che, tra virgolette, passatemi il termine, te la godi di più, no? Cioè, se oggi, che ne so, è come quando mangi una schifezza, no? E poi magari stai male, no? Non è che ti puoi arrabbiare con l'azienda che ha creato quel cibo spazzatura perché, non, non, perché ci so, è pieno di conservanti, no? Puoi arrabbiarti con l'azienda, ma puoi pure arrabbiarti con te stesso per dire: ma io potevo anche non comprarlo comunque. Cioè, non è che l'azienda me l'ha messo in bocca e me l'ha fatto mangiare, no? Quella è la differenza. Quindi, Quindi capisci e ti fai anche, diciamo, un po' più, ti ami un po' di più perché capisci i tuoi limiti, dici ok, ho ceduto a questa tentazione, adesso sto male, ma, è responsabilità mia, no? Quindi ne accetti le conseguenze e magari la volta dopo sbagli una volta di meno, diventa proprio un rapporto più amorevole, secondo me, anche con se stessi, no? Piuttosto che l'odio. Molto impegnativo perché tanta gente mi dice: Polina, ma io non ho attirato quell'incidente, io non ho attirato quella malattia, io non ho attirato quel divorzio, quella separazione, no? Cose che sembrano che accadono oltre, fuori le nostre responsabilità. Purtroppo, E invece no, non è così. purtroppo tutto è la nostra responsabilità. Una ragazza una volta è stata avvelenata e mi ha detto: io non ho attirato quello. Quando gli ho È chiesto difficile, dov'era, a che ora era uscita, ha tirato lei, perché di notte in un quartiere pericolosissimo Esatto. attraversavo un parco alle 3 di notte da sola. Mi dispiace perché hai attirato tu, nel senso, tante volte noi rischiamo, ci mettiamo nelle condizioni di rischiare, Sì, no? sì, sì. La nostra vita, le nostre cose. Sì, poi no, no, non vuol dire, ovviamente è facile cadere nella tentazione dell'opposto, no? Non vuol dire che è giustificata l'azione che gli è stata fatta o che era giusto così o che se lo merita, no? Vuol dire, come dici tu, che se uno si ascolta magari se lo sentiva che lì non ci doveva andare in quella sera, no? O magari te lo attiri anche in altri modi. Io, praticando molto anche la spiritualità, mi rendo conto che tante cose le attiriamo anche in modi molto indiretti, cioè non è detto che una cosa io me la attiro adesso facendo una cosa adesso. Magari, ho creato un tipo di energia con cui io vado in giro e quell'energia attira delle persone negative. Io, che sono una persona fondamentalmente buona, sono andato via da Roma perché ho attirato, mi è successa questa cosa qua, mi è successa che ho avuto un incidente con la macchina dove io non mi sono fatto niente, mi sono venuto addosso due pazzi criminali, italiani, aggiungo, perché se no si dà sempre addosso agli stranieri, no? Italiani, e questi fra un po' ho rischiato che mi aggredissero, no? Anzi, mi hanno aggredito, ma ho rischiato di prendere proprio le botte. E quando sono andato via, ovviamente la rabbia, tutto, no? Perché comunque i colpevoli erano loro. Però mi ricordo benissimo che, mi sono sentito responsabile, ho detto come ho fatto io ad attirare questa situazione? Comunque la colpa non ne avevo assolutamente, no? E ho pensato, ok, a Roma ci sto io, era un bel po' che mi sentivo che mi stava stretta, no? Quindi io ho deciso di rimanere a Roma, poi io avevo quell'atteggiamento di superiorità, no? Verso queste persone, no? Quindi quando sono sceso dalla macchina, comunque quell'energia di sfida, loro non vedevano l'ora, loro cercavano qualcuno per sfogare la loro ira, quindi io con l'atteggiamento da sfida li ho provocati, capito? Provocati come? Dicendo, ah, adesso chiamo i vigili, no? Loro si sono incavolati quando io ho detto così, capisci? Sono d'accordo. E quindi sì, loro erano criminali, loro avevano tutto il torto comunque, però la responsabilità in qualche modo era mia. Perché? Perché quel periodo attiravo tutte persone che mi davano fastidio. Me lo ricordo, sì. Tutto. Tutti a me, il mondo ce l'aveva con me. Porca miseria, Ricordo. andavo in giro, mi fermavano, la polizia mi fermava, le persone mi attaccavano, i maschi soprattutto mi guardavano con sfida, no? E come mai oggi non mi capita più? E allora è facile fare due conti alla fine, Sì, la responsabilità è dura da digerire sì, è dura, è dura. questa cosa, però una volta che riusciamo a digerirla e poi metterla in pratica e farla nostra, cambia tutto. Sì, A me ha cambiato completamente. che poi non è da confondere con la colpa, non è colpa mia che mi è successo No. l'incidente. L'incidente è successo perché esistevano due criminali sulla mia strada, quindi i criminali sono loro, non è colpa mia, però potevo evitarlo, sì, perché potevo andare più piano con la macchina, potevo guardare meglio, potevo essere più umile nel momento in cui ci ho avuto l'incidente, potevano cambiare tante cose, potevo non essere a Roma, nel senso che lo sapevo che non ci dovevo, tant'è che il giorno dopo ho deciso di andarmene da Roma subito. Però vedi, grazie a quel momento lì, Grazie a hai quello. preso una decisione che magari eri indeciso di prenderla. Sì, ero È inutile indeciso. pernocere, no? Sì. Alla fin fine, alla fin fine, se vogliamo, Come tutte le no? cose nella nostra vita, anche le più dolorose, Sì. anche quelle più... L'altro giorno ho visto che hai messo su Facebook, una foto di tua sorella, no? Sì. E mi sono commossa tantissimo perché... C'è stato tanto dolore nella tua vita, nella nostra vita, perché quando sei andato via ho perso anche io un pezzo di me che sei te. E grazie a quel dolore, guarda caso, hai fatto dei passi incredibili, Sì, no? sì. C'è stata una ricerca, un trovare, Ah, ah. è quello. Sembra come se, sembra come se sotto sotto c'è qualcosa che ti dice fai questo. Io dovevo andare via da Roma, per esempio, no? Però non avendo ascoltato quel messaggio, è come se la vita mi avesse detto, ok, te lo dico in un modo magari un po' più forte, ma perché ascolti, non perché ti voglio punire, non è una punizione, non mi hai sentito, siccome devi andare via da Roma perché ti fa bene andare da un'altra parte, te lo dico, è meglio pagare un prezzo iniziale più alto per poi avere un premio più alto, no? E allora lì io ho pagato il prezzo del trauma, però come dici tu, dopo la ricerca è stata infinita, stessa cosa con mia sorella che insomma se n'è andata e diciamo il prezzo è stato alto. Ma anche poi il premio è alto, no? C'è mia mamma che dice se non fosse successo quello che è successo, non sarei quella che sono, no? È difficile poter accettare questa cosa qui, no? Ma è difficilissimo, però tanto meglio accettare così che star lì a essere arrabbiato con la vita tutta la vita, anche perché poi la vita fondamentalmente ci insegna, non sta lì per punirci, no? Quindi io credo che quando succede qualcosa che noi reputiamo brutto, vederla come una punizione è solo aumentare la fatica, no? Sì, infatti quando la vita ci dà dei messaggi e noi, come dici te, non vogliamo ascoltarlo, arrivano tanti modi che la vita continua a dirci, cambia strada, quello non va bene per te, e finché noi non prendiamo una botta forte, Esatto. purtroppo non impariamo. Invece, se da oggi cominciassimo a ascoltare Sì. cosa ci sta dicendo la vita, ogni giornata, ogni momento che sta accadendo, essere più presenti, no? Sarebbe meglio, sarebbe più Ma le botte poi non arrivano opportuno. più. Non arrivano. Esatto, perché se per esempio io ho la sensazione che devo cambiare lavoro, ad esempio, e aspetto 10 anni perché non ho il coraggio. Prima o poi succede qualcosa, no? Succede che l'azienda chiude, succede che litigo col padrone, succedono tante cose, no? Se invece ascolto quella cosa e cambio lavoro, innanzitutto ho deciso io quando farlo. Quindi non subisco la vita, ma la agisco, no? E poi non esiste poi che magari quel messaggio forte che sarebbe arrivato col trauma, con una cosa grossa, non arriva perché te lo sei capita da solo. Se io fossi andato via da Roma un mese prima, non avrei avuto quell'incidente. Certo, perché già me lo dicevi, voglio Voglio andare andare, però non ovunque. avevo. Esatto. O come quando sei in una relazione che non. Senti che non va bene, però rimani insieme, cosa succede? Succede che arriva l'esasperazione e arriva il grande litigio, arrivano le grandi cose, però alla fine ti lasci comunque, eh? Solo che fai più fatica, quindi tanto vale farlo subito, no? Poi quello ne abbiamo avuto tutti l'esperienza di una relazione portata avanti fino all'esasperazione, no? Credo. Sì, la maggior parte sì, penso che Che sì. palle, cioè che non arrivi più e dici già da un anno sapevo che dovevo andare, no, cioè, vedi, allora Sì, ma quello con tutto, anche con la salute, no? Io mi stavo sentendo male a Sì. novembre dell'anno scorso, ho tirato avanti fino a febbraio che non ne potevo alzare da letto, quindi E lì hai mi sono dovuto agire, informata, sono no? andata, e lì ho dovuto per forza agire e di brutto, perché poi ho cambiato l'alimentazione Di botto, completamente, cioè certo. non avevo più scelta, o così o proprio mi Esatto. veniva un'artrosi Sì, terribile, no? poi Quindi il rischio lì poi di pagare delle conseguenze a volte irreversibili, no? Perché se poi il danno non è riparabile, ti tieni il danno, no? È così la vita, purtroppo, quindi va accettato anche quello, no? quindi ascoltiamo di più i messaggi della vita, Sì. ascoltiamo in modo attivo, Esatto, ecco, non passivo. se c'è per esempio questo desiderio di ascoltare questo podcast, però non ce la faccio, però vorrei, però non riesco, però vorrei, bene, svegliatevi venerdì mattina alle 6:30 insieme a noi, perché un conto è farlo di propria scelta, no? Un conto è che la vita invece ci obbliga a alzarci alle 6:30 per lavoro, perché sicuramente noi ci siamo alzati anche alle 5 per lavoro, no? Però meglio alzarsi per piacere che per lavoro, nel senso, no? Secondo me. Bene, siamo arrivati precisi a 30 minuti e 55 secondi, direi quindi che è andata così in scioltezza. Se volete saperne di più, www.paolinaalexandra.it o ilvolodelcolibri.com e www.stefanoroganti.com, contattateci, fateci le domande e niente. In bocca al lupo e buon fine settimana. Vi aspettiamo, sì, buon fine settimana e ascoltate di più la vita, il vostro istinto che vi parla Sì, sempre. ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo. Bye bye, ciao Paolina. Ciao, Ciao, buona ciao, giornata. ciao, ciao, ciao.